Dio di Salve Regina, Emma, Domine Restare, Eque Favosis Mare, gioia e riso, tu ti consolare, tu ti rigorare, l'anima Nemine Gitio.